Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera presentiamo due libri dove si parla di talenti, di un grande talento come Steve Jobs, dei talenti in un'economia che cerca appunto di valorizzare le persone per cercare di far crescere la società. Iniziamo parlando di Steve Jobs a un anno della sua scomparsa, ma lascio la parola a Gigi Donelli. 5 ottobre 2011, la scomparsa di Steve Jobs. Un anno dopo, dunque, Jay Elliot, già Senior Vice President di Apple, scrive con William Simon un nuovo capitolo di quello che lui stesso ha definito l'uomo che ha inventato il futuro. Lo scrive e lo pubblica in Italia per Oepli, dunque in libreria, Steve Jobs, la storia continua. Allora, Mr. Elliot, innanzitutto, perché tornare oggi su Steve Jobs? Basically, after I wrote my first book, it was very successful and I got a lot of feedback. Beh, diciamo che dopo la pubblicazione del mio primo libro, che ha davvero avuto moltissimo successo e un grandissimo riscontro, ho avuto messaggi da tantissime persone che volevano sapere di più, più particolari, più dettagli su Steve, sulla sua vita. E dal momento che poi in seconda battuta era anche uscito un altro libro che io non credo sia particolarmente positivo su Steve Jobs, volevo scrivere più cose pratiche e dare ai lettori la possibilità di riuscire a capire molto meglio quello che fosse il punto di vista di Steve sul lavoro. Give another view of what Steve really was like. Caratteriale, a volte sprezzante, Jobs non si faceva mancare un uso piuttosto informale del linguaggio. Lei stesso, che è l'uomo che di fatto Jobs aveva assunto personalmente portandolo via da IBM perché l'aiutasse a far maturare Apple, lei stesso, dicevo, racconta che boso, zuccone in italiano, era un'espressione che Jobs usava con una certa generosità. Steve had a different language, and I think Steve, one of the magic of Steve was that he had a language that was his. It wasn't typical corporate language, and I think that. Beh, Steve aveva davvero una lingua diversa. Una delle magie della anche proprio sua personalità era che la lingua che usava anche sul lavoro era la cosa meno aziendale possibile e la sua preoccupazione principale era sempre e solo quella di riuscire ad avere il miglior prodotto al mondo. Allora, se consideriamo tutte queste cose, se consideriamo la grande intensità che lui profondeva proprio per riuscire ad avere il miglior prodotto al mondo, che fosse user friendly e che soprattutto riuscisse a entusiasmare e a sorprendere gli utenti, capite anche il perché si esprimeva in certi casi e in certi momenti arrabbiandosi molto con le persone, ma non era un'arrabbiatura nei confronti delle persone, era piuttosto quasi un'arrabbiatura nei confronti di se stesso, perché voleva che questo prodotto fosse davvero un prodotto che primeggiasse. Ecco, era questo suo entusiasmo che lo rendeva magico. Apple dopo, senza Steve Jobs, e dunque la domanda è inevitabile. Lei come vede il futuro appunto di questa storia che è Apple dopo Steve Jobs? The future of Apple, I believe, has been highly directed by Steve, and even after his death, he'd put in place a roadmap for future products. Beh, il futuro della Apple è stato un futuro anche proprio diretto da Steve, che sapeva di dover morire, che ha proprio tracciato una diciamo direzione che si sarebbe seguita e proprio quando si rese conto di dover morire accelerò anche tutta una serie di mosse tecnologiche e creò questo team di persone per implementare appunto i suoi ultimi sogni. Di fatto io credo che Tim Cook sia un leader assolutamente ottimo e soprattutto devo dire se notiamo quello che è successo nel corso dell'ultima presentazione, differentemente da quanto era successo fino a quel momento in passato, non c'era più solo Steve Jobs sul palcoscenico a presentare il prodotto, ma il prodotto era stato presentato proprio da questo team ristretto di persone che sono davvero una buona squadra e che io credo sappiano benissimo dove stanno andando e dove andare nel futuro e abbiano colto quella che è l'essenza di Apple, quindi non c'è ragione di temere per il futuro dell'Apple. So I'm very positive that they will do well in the future. caso unico da una parte e modello cui ispirarsi. In che modo, magari al di fuori del mondo Apple stesso, quale lezione possiamo ancora trarre dalla sua esperienza? The lesson you can learn is that the culture of the company has to be highly understood. Beh, la lezione che si deve e si può imparare è quella della cultura aziendale. Cito sempre l'esempio della Kodak. Nel 1976 era leader di mercato, la prima ad aver introdotto sul mercato la macchina fotografica digitale. Oggi è fallita ed è fallita per un'assenza di visione, per un'impossibilità di riuscire ad implementare questa visione aziendale e farla diventare davvero cultura. Anche dopo il disastroso periodo di Scully, quando Steve ritornò all'Apple, c'era comunque la cultura aziendale dell'Apple, la sua visione ancora viva e ovviamente c'era ancora questo sentimento che ben si riassume nella definizione che aveva dato Steve di essere sempre i pirati e mai la marina. Ecco, sono queste le cose che un'azienda deve avere anche quando il leader la lascia, se vuole continuare ad avere un buon futuro. And those are the things that companies have to have if they want to continue on to be have this strong ability even when their leader leaves to continue on, and that's the magic of Apple today. E dopo aver parlato di Steve Jobs con l'intervista di Gigi Donnelly a Jay Elliott in occasione del libro Steve Jobs, la storia continua, che proprio in questi giorni arriva nelle librerie italiane edito da Oepli, parliamo di altri talenti, di tanti talenti che ci sono nelle imprese, nella società anche italiana, e ne parliamo con Aldo Canonici. Buonasera Canonici. Buonasera Fabi. Aldo Canonici è autore del libro, un libro ricerca, L'economia dei talenti, una ricerca europea per mettere a fuoco processi e strumenti atti a gestire e far crescere i talenti aziendali in momenti di crisi. È un libro edito da Franco Angeli. Allora Canonici, è un libro ricerca, un viaggio attraverso alcune imprese, alcune grandi imprese europee, per vedere come queste imprese valorizzano se stesse, valorizzando i talenti appunto che lavorano in queste imprese. Come sono state scelte queste imprese? Ma queste imprese sono state scelte ovviamente soggettivamente tra le grosse, ecco, quelle che a mio giudizio erano le più idonee in questo campo. Ho preso ad esempio dagli anglo italiani la Augusta Westland Elicotteri, la Amgen, che è considerata la quarta nel mondo da Forbes come proiezione nel futuro, l'Electrolux, la Kone, la Volvo Scandinave, la Siemens, insomma. Quindi un viaggio in Europa, in queste grandi imprese, alla ricerca delle politiche per valorizzare il personale. Che sorpresa ha trovato rispetto ovviamente a un paradigma che si era fatto, anche in base alla sua esperienza aziendale, di lunghi anni di consulenza aziendale, ecco, avere delle idee, magari anche dei pregiudizi. Ecco, l'esperienza concreta, che sorpresa ha trovato in queste imprese? Che sorpresa maggiore ha trovato? Dunque, la prima in un certo senso è quella relativa al tempo di crisi. La crisi evidentemente e purtroppo esiste, ma è a pelle di leopardo, cioè ci sono aziende veramente in crisi, ma di queste scelte evidentemente non granché. Qualcuno mi faceva il paragone un po' come i giocatori di calcio, i talenti, cioè a certi livelli in fondo si muovono tranquillamente da una parte e dall'altra e il bisogno si sente. Ecco, ecco, nella sua introduzione Domenico De Masi, che ha scritto appunto la prefazione di questo libro, scrive che siamo di fronte a una svolta epocale delle imprese. Per ottenere i vantaggi della creatività, esse dovranno riorganizzare il lavoro in modo da reclutare, coltivare, trattenere i talenti a tutti i livelli, abbandonando l'organizzazione ereditata dall'industria manifatturiera e sperimentando nuove forme organizzative con lo stesso coraggio con cui Taylor e Ford sostituirono la bottega artigiana tradizionale con la grande fabbrica parcellizzata. Quindi siamo di fronte anche a una rivoluzione dell'organizzazione del lavoro. Sicuramente. Intanto, ecco, la prima cosa interessante è che queste aziende, tutte quante o quasi, hanno proprio un servizio apposito, il manager che si occupa dei talenti, cioè viene considerata la risorsa principale in un certo senso. Cambiano il tempo e lo spazio in molte di queste aziende. Ad esempio, Ecco, prendiamo i casi che sono tipo la Siemens o la Amgen, questa azienda farmaceutica. Non ha molta importanza il tempo e il luogo dove il lavoro si svolge. Se Fabi può fare un certo lavoro meglio a casa sua, lo fa a casa sua tranquillamente. Basta avvertire che l'indomani non va in azienda. E variano anche i luoghi. Molti lavorano da casa, appunto, molti possono lavorare con il telelavoro. Il cartellino ha un'importanza sempre minore per queste persone. Ecco, quindi proprio la conclusione ha per titolo l'elemento umano come asset fondamentale, cioè le aziende hanno bisogno di creatività, hanno bisogno di avere delle idee nuove, di metterle in pratica, quindi questo diventa una riscoperta in fondo del valore della persona, però una persona che deve anche mettersi in linea con le imprese, avere delle motivazioni per fare i propri interessi, per dire con Adam Smith, facendo gli interessi dell'impresa. In questo senso c'è quasi un mito, infatti anche un capitolo del libro si chiama Il mito della Scandinavia. È un mito reale questo della Scandinavia? Sì, io direi proprio di sì, e infatti sono andato con particolare interesse a vedere, per esempio, tra le aziende prese nel libro c'è la Electrolux, la Volvo, la Kone in Finlandia, scale mobili, ascensori, eccetera. Ho cercato anche altre voci diverse dalle aziende. Per esempio, ecco, l'ambasciatore svedese a Roma, una gentile signora, ovviamente in base al principio dell'eguaglianza uomo-donna sul lavoro. Aziende di questo tipo sono qualche anno avanti agli altri. Per esempio, a proposito delle donne uomo, mi aveva colpito una di queste interviste con persone importanti, eccetera, in cui la signora che svolgeva l'intervista, direttore del personale di una delle grosse aziende, diceva: guardate che alle 17 dobbiamo finire perché devo andare a prendere i bambini a scuola. Cosa da noi che sarebbe abbastanza imbarazzante sentirsela dire. Ecco, appunto, mettere insieme il globale e anche il particolare, rispettare la persona ma valorizzarla fino in fondo. E appunto Domenico De Masi conclude la sua prefazione dicendo: se le organizzazioni vogliono sopravvivere in un mercato planetario spietatamente concorrenziale, devono essere capaci di produrre e realizzare idee originali sufficientemente numerose. In altri termini, devono essere creative, assumendo, formando e premiando talenti. Ecco, in questo senso, Aldo Canonici, com'è messa l'Italia? L'Italia è, sotto questi aspetti, no, non è che brilli molto. Purtroppo sappiamo che molti dei nostri talenti vanno all'estero. E non è soltanto questione di denaro. Il problema è che ci sono altri, diciamo, strumenti che si possono adoperare. Ecco, per esempio, il mix delle culture, il fatto di avere aziende che abbiano un grosso nome, e aggiungerei fino anche la formazione permanente. Certamente, in un mondo del lavoro in grande evoluzione è certamente importante non stare fermi, ma cercare di muoversi, di mantenere i contatti con la realtà e anche all'interno delle imprese di sfruttare le occasioni che certamente si formano, perché anche le imprese sono degli organismi viventi fatti da persone. Grazie a Aldo Canonici, autore del libro L'economia dei talenti, una ricerca europea per mettere a fuoco processi e strumenti atti a gestire e far crescere i talenti aziendali in momenti di crisi, edito da Franco Angeli, 142 pagine, 19 euro. Grazie quindi a Canonici, grazie anche a Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo. Grazie a voi, buona serata.